E siamo all'appuntamento con il cinema Visionari. Ogni giovedì dalle 14 alle 15, 28 marzo del 2013, 87.900, la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, senza padrini, senza padroni, la radio è di chi se la sente. E chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00985, Roma. C'è un'altra modalità andando sul sito internet della radio, sulla home page, alla voce sostieni, www.ondarossa.info, sostieni, troverà la modalità PayPal. Allora, per contattarci il telefono 0649 1750, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Abbiamo anche la pagina Facebook di Visionari e per consultare la scaletta della trasmissione di oggi basta consultare il sito alla pagina Trasmissioni Visionari. Troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 28 marzo, i nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, la settimana sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana, questa volta in giro per l'Italia tra rassegne, festival e proiezioni. In fondo alla pagina il link che rimanda all'ultima trasmissione, all'ultima puntata dello scorso giovedì, all'archivio del 2013, all'archivio del 2012. Diamo inizio ai collegamenti telefonici con i nostri ospiti, un attimo di pazienza. È con noi Corrado Sassi, regista del film Waves, che è stato proiettato al Cinema Kino ieri 27 marzo, sarà in programmazione anche domani 29 marzo. Corrado, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, intanto era stato presentato al Festival del Film di Roma, giusto? Sì, sì, è stato preso al Festival di Roma in Prospettiva Italia, in concorso, e poi appunto dopo ora è stato preso anche altri due festival negli Stati Uniti, il Festival a Palm Beach e il Festival a Houston, e poi appunto abbiamo fatto queste proiezioni al Kino, così per iniziare insomma a far vedere un po' il film, che è stato ieri alle 8:30 e 10:30 che io ho presentato il film, e poi ci sarà domani sempre alle 8:30 doppio orario, 10:30 di sera. Senti, allora intanto com'è andata, al di là dei festival, quella che è stata poi una prima romana, quella di ieri al Kino? Bene, senti, c'era parecchia gente, sì è stato interessante come cosa. Poi io ho raccontato un po' di cose, finito il film, un po' di appunto insomma di come mi è venuto l'idea di fare un film appunto che si svolge per gran parte su una barca a vela. Ecco, raccontacelo un po' per chi ci ascolta e volesse saperne di più. Mi sono ispirato a un racconto di Robert Louis Stevenson che si chiama Il riflusso della marea, che è l'ultimo racconto che ha scritto Stevenson, che parla, che si svolge, l'ho scritto appunto, si svolge quando l'ha scritto Stevenson, a fine dell'Ottocento, si svolge in Polinesia. Sono queste due americani, un europeo, sono andati a cercare fortuna nelle colonie lì appunto in Polinesia, e però poi sono, insomma, si ritrovano, inizia proprio il racconto, che sono questi tre che vivono proprio buttati per la strada senza soldi, e tipo nel momento appunto in cui sembra che insomma che sono finiti, che sono insomma completamente poveri, malati, con la tosse, così invece di appunto propongono di portare una goletta fino a Sydney, una goletta carica di vino e di vino, e loro appunto gli sembra appunto incredibile, quindi partono con questa goletta e fanno tutti progetti, sono tre diciamo un po' alla deriva, e appunto pensano di invece andare in Perù, vendere questa goletta e investire nelle miniere di argento in Perù, e iniziano a bersi tutte queste casse di appunto champagne che c'è proprio sulla barca, e mangiano tutte le provviste, iniziano fra di loro anche ubriachi a litigare così, e scoprono dopo qualche giorno che scoprono che queste casse di champagne in realtà c'è solo il primo strato che sono delle bottiglie piene di champagne e il resto sono bottiglie vuote oppure con insomma, piene di acqua così. E quindi si rendono conto che insomma capiscono che questa goletta, che era una goletta vecchia, un po' insomma fatiscente così, gli è stata data solo per appunto da appunto una manovra degli assicuratori per appunto sbarazzarsene e prendere i soldi dell'assicurazione. Mm-hmm. Quindi capiscono che sono stati un po' ingannati così, e per caso poi quando hanno finito i viveri, hanno finito l'acqua, arrivano in un'isola che non è segnalata sulle carte, dove incontrano questo personaggio che vive lì da anni, un europeo colto, diciamo molto raffinato, che viveva lì per appunto prendere le perle, per raccogliere le perle. E lì poi succede tutta la cosa nel racconto, che provano diciamo certo a rapinarlo così. Io diciamo mi sono ispirato a questo racconto e ho cambiato alcune cose, per esempio ho messo un personaggio femminile che nel racconto non c'è, che loro appunto partono tre uomini con la barca nei nostri giorni, con questa barca appunto all'inizio del film, poi non cioè per metà del film non si capisce bene dove stanno andando, però mentre sono in mare, dopo qualche giorno sono in mare, vedono passa dopo giorni che stanno in mare che non vedono barca, e vedono un motoscafo che gli passa vicino e una donna si getta in mare e nuota verso di loro, quindi loro prendono questa donna a bordo e proseguono il loro viaggio verso un'isola, invece appunto nel mio racconto loro vanno proprio in un'isola per fare appunto tutta una cosa, e poi anche il finale è diverso dal racconto, però appunto come per il mio primo film mi ha fatto proprio piacere, cioè mi ha fatto piacere, mi sono trovato più a mio agio di ispirarmi a una storia già appunto esistente, anche per imparare a raccontare le cose così. Cosa ti aveva impressionato maggiormente nel racconto di Stevenson, tanto da desiderare di trasporlo al cinema? Appunto quello che mi aveva divertito, intrigato, e proprio questi tre diciamo allo sbando, che non sono dei criminali veri e propri, ma sono proprio dei piccoli criminali che poi perdono un po' il controllo, iniziano a litigare fra di loro, arrivano in quest'isola dove invece c'è questo personaggio che a me appunto piaceva molto, che è un po' anche simile poi a Curse del libro di Conrad, Cuore di Tenebre, che è proprio un po' l'idea del superuomo colto, che insomma che in cui dove appunto si vede che la sua etica va un po' al di là dell'etica comune, così. Infatti poi il finale diciamo è ispirato proprio a Cuore di Tenebra come film, e quindi mi piaceva questo confronto fra questi tre, che appunto incontro questa persona molto fredda, molto algida, che li cerca di tenerli sotto controllo così. E poi anche molto appunto quello che mi è piaciuto, che insomma perché io appunto sono cresciuto leggendo tutti i racconti di Conrad, di Melville, di Hemingway, che si svolgono in mare, insomma sì, così. Sì, e allora sì, a me appunto quello che interessa molto, specialmente in Conrad, come su una nave i caratteri umani vengono messi a nudo proprio. Allora cioè appunto anche io poi conoscendo il mare, perché ho lavorato per 3-4 anni come skipper sulle barche quando ho finito la scuola del liceo, poi ho fatto tutti i viaggi, sono andato ai Caraibi con la barca, in Mar Rosso, in Oceano Indiano, così, quindi insomma amo molto il mare, allora ho pensato che anche girare un film che si svolge in barca, che è una cosa anche insomma un po' una sfida, perché non certo è semplice, però io avendo questa conoscenza del mare così, insomma avrei potuto diciamo sfruttarla in un certo senso. Senti, se non sbaglio il tuo percorso artistico comprende anche i video d'arte. Sì, vedete, io appunto insomma fin da quando appunto proprio 14 anni faccio le fotografie, mi ricordo che avevo la mia piccola camera oscura, ho questa passione per la fotografia che mio nonno mi ha regalato, proprio una macchina fotografica, e poi finiti gli studi ho lavorato un po' sulle barche a vela e ho iniziato a fare fotografie, e diciamo io proprio il mio lavoro faccio tutte mostre con le fotografie, uso le fotografie e le installazioni, sì, quindi lavoro come artista, però ho fatto anche diciamo prima di questo film ho fatto tre video per delle video installazioni. Quello è stato un po' il mio approccio, poi appunto di cui il terzo era proprio quasi un cortometraggio, e poi anche appunto insomma ho lavorato per i primi tre film di Matteo Garrone come attore, quindi anche lì e mi sono insomma avvicinato al cinema. Io insomma ho sempre amato il cinema, però diciamo stando un po' sul set viene un po' questa insomma questa passione per il cinema, questa attrazione, diciamo. Poi insomma ho frequentato sempre tutti i miei amici, anche di Matteo, che sono registi, sceneggiatori, così. E quindi quello lì un po' è... Senti, Corrado, per oltre a questa doppia giornata al Chino, è prevista anche un'uscita in sala a livello nazionale e più diffusa? Ancora no, ancora perché, no. Infatti poi specialmente di questi tempi è un po' difficile di distribuire film, però insomma appunto spero che appunto nei prossimi mesi, ora mi sto appunto insomma sto sentendo dei distributori di fare una uscita in varie sale del film. Intanto ricordiamo Waves, il tuo film d'esordio, in programmazione al Chino qui a Roma domani 29 marzo, doppia proiezione 20:30 e 22:30 se non sbaglio. Alla tua presenza. Corrado, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie. Ciao. Arrivederci a tutti. Ciao. Corrado Sassi, regista del film Waves. Per inviarci SMS in diretta il numero è 342-357-4357, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ben ritrovata Costanza Quatriglio. Ciao. Come stai? Bene, bene, grazie. Allora, nuovamente con te per parlare di Terra Matta, il tuo documentario di cui avevamo parlato qualche mese fa in occasione della presentazione. Se non sbaglio era Venezia? Era Venezia. Sì, Venezia. Mentre adesso sarà possibile vederlo, ci sono due occasioni. La prima, a partire dal 2 aprile, sarà in 16 sale a Roma e nel Lazio nell'ambito della rassegna L'Italia si racconta. Questo mi sembra un risultato importante. E poi, sul finire di aprile, all'interno della nona edizione di Italia Doc di Maurizio Di Rienzo, alla Casa del Cinema, sempre qui a Roma, il 24, il 25, il 27 e 28, alla tua presenza. Allora, cominciamo dal raccontarlo un po' per chi ci ascolta e non lo conosce. Terra Matta, di cosa si parla, Costanza? Allora, Terra Matta è una storia un po' bislacca, perché è la storia del Novecento raccontata, anzi scritta, da un contadino semianalfabeta che a un certo punto della sua vita ha deciso di impossessarsi di una macchina da scrivere, così come si era impossessato per tutta la vita degli strumenti di lavoro, no? Dalla zappa a qualsiasi altra cosa, visto che aveva cambiato mille mestieri, e ha scritto la sua autobiografia, che di fatto corrisponde a tutta la storia del Novecento, perché lui era nato nel 1899, quindi parte questa storia avventurosissima con la Prima Guerra Mondiale, con la trincea della Prima Guerra Mondiale, per attraversare tutti i grandi eventi, diciamo, del Novecento, fino al boom economico, l'istruzione dei figli, eccetera. Ma la cosa straordinaria è che lui è un grande narratore e scrive come parla, quindi in modo assolutamente sgrammaticato, dicendo delle grandissime verità, perché praticamente lui non ha il filtro dell'autocensura, no? Quindi racconta le cose come stanno, raccontando in barba ai potenti tutte quelle cose che non stanno nei libri di storia. Allora, una storia non ufficiale che comunque diventa storia di un'intera comunità, con anche tutti i difetti di un popolo. Assolutamente sì, perché lui è consapevole di far parte della storia, di costruire la storia, anche se poi non si siede, diciamo, al tavolo della storia ufficiale, no? Ed è talmente tanto dentro le dinamiche dei rapporti con il potere tutte le volte, perché deve sopravvivere, no? Da poverissimo, e dalla trincea fino a poi alla Repubblica, no? Racconta anche la sua adesione al fascismo, poi il suo trasformismo continuo, la ricerca, diciamo, sempre del potente di turno. Tutto questo è chiaro che è uno spaccato su che cos'è l'Italia, cosa sono gli italiani in qualche modo, anche se non sembra quasi consolatorio, ma non lo è, nel senso che è in qualche modo come il Candido, no? A un certo punto lui ti dice un po' le cose come stanno, riesce a raccontare con la forza evocativa, straordinaria, ma anche molto preciso, quasi cronaca, anche di aver preso parte a una sevizia nei confronti di una giovane donna in Slovenia alla fine della Prima Guerra Mondiale. E noi sappiamo che gli stupri di guerra, di questi non si parla, certo. Ecco. Quindi ti dico soltanto questo, cioè lui è stato veramente un grandissimo narratore, infatti più che protagonista del film lui è il narratore, protagonisti siamo noi che ci rispecchiamo tutte le volte che lui ci racconta qualcosa che ci appartiene. Ecco, uno degli elementi di forza è proprio la potenza di questa personale forzatura del codice linguistico. Ecco, volevo chiederti cosa ti ha impressionato in questo in particolare? Guarda, mi ha impressionato la materia, la forza, appunto la terra, ecco, la fisicità della scrittura. Sì, sì, sì. Lui usava questa macchina da scrivere solcando proprio le pagine con grande violenza, per cui ci sono queste pagine scritte fitte, senza interlinee, senza punti, senza niente, mettendo i punti e virgola tra le parole così a mo' di spazio, ovviamente tutte sgrammaticate, e potentissime dal punto di vista proprio della capacità di raccontare per immagini. Sì, sì, sì, questo sì. Mi ha colpito, la sua tenacia. Ecco, proprio a proposito di immagini, un utilizzo dell'archivio dell'Istituto Luce, come dicevi nell'altra chiacchierata che ci siamo fatti qualche mese fa, è un utilizzo pop di quest'archivio e poi i luoghi di Vincenzo dal suo punto di vista, un'alternanza insomma di questi due elementi. Assolutamente, perché il film è tutto dal suo punto di vista, è lui che ci racconta questa storia, e allora io ho dovuto fare i conti con un immaginario visivo che nasce fondamentalmente da una storiografia nata per la propaganda, storiografia visiva, immagino, sì. Cioè le immagini dell'Istituto Luce, e quindi no? E ho attraversato quindi questo archivio cambiandone il senso, proprio perché attribuendo a queste immagini il senso di Vincenzo Rabbita, di questo grande narratore che è completamente avulso dalla rappresentazione del potere. Quindi è tutta un'altra cosa ed è diventato pop anche per questo, perché poi io è chiaro che l'ho manipolato l'archivio, quindi è colorato e anche divertente per certi versi. Ci sono delle parti, diciamo, in cui non lo riconosci, alcune volte invece al contrario è bello riconoscerlo, e quindi magari delle immagini che assomigliano a delle immagini arcinote però sono un'altra cosa, ecco, completamente. E i luoghi di Rabbito sono i luoghi che ho filmato, perché il film mette insieme tantissime cose dal punto di vista linguistico, tra cui un viaggio vero per queste strade che sono le strade della Sicilia, perché Vincenzo Rabbito era nato a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, e ho attraversato, così come attraversava lui a piedi le strade, anch'io ho attraversato questi luoghi quasi planando con la macchina da presa, diciamo, raccontando un paesaggio che è un paesaggio in cui si proietta il passato. Uno spettacolo di Vincenzo Verrotta che io ho avuto modo di vedere a teatro, e il tuo documentario, insomma, c'è un interesse verso il nostro passato, questo che abbraccia un po' tutto il Novecento italiano. Secondo te qual è l'attualità di alcuni aspetti del carattere nazionale tra limiti e pregi? Ecco, qual è la potenza che può arrivare oggi anche ai giovani che si avvicinano ad un testo del genere? Ma guarda, innanzitutto questa grandissima capacità di verità, indipendentemente dalle sovrastrutture, di potere, ecco, sì, per cui lui di fatto ti dice, appunto, prima dicevamo le cose come stanno, lui ti racconta perché diventa fascista e come diventa fascista, così come ti racconta tantissimi altri episodi. Sì, sì, sì. Nello stesso tempo anche, diciamo, la sua consapevolezza che cultura e istruzione sono due cose diverse in qualche modo. Lui interiorizza questo sentimento fortissimo, nonostante questo lui compiange, cioè lui tutta la vita pensa se fossi andato a scuola, tant'è vero che fa di tutto per far studiare i suoi figli, per far emancipare questi figli in qualche modo, quindi ci racconta qualcosa di importante, cioè un uomo che cerca di superare la propria condizione e a un certo punto della sua vita, già anziano, si mette a fare A, I, O, U, E questa cosa qui è una cosa importante, perché noi stiamo al contrario andando indietro da questo punto di vista. Cioè, siamo impoveriti, siamo depauperati. E quindi lui era uno che guardava al futuro, ma sapeva guardare al futuro, tant'è vero che a un certo punto ci sono delle pagine pazzesche sui figli che fanno il 68, no? A Bologna, e lui racconta di belle epiche, cioè lui riesce in qualche modo a capire che lì non è soltanto una questione, diciamo, di, come dire, di raggiungimento di uno status, però lì si sta veramente giocando il futuro. E noi? Giusto, Costanza. Senti, allora ricordiamo gli appuntamenti. Intanto, all'interno della rassegna L'Italia si racconta, a partire dal 2 aprile prossimo in 16 sale a Roma e nel Lazio, e poi sul finire del mese, all'interno della nona edizione di Italia Doc alla Casa del Cinema, ci sarai anche tu per parlarne il 24 e il 25 e poi il 27 e il 28. Costanza, di nuovo, come sai, è un piacere averti con noi e a risentirci presto a questo punto. Sì, grazie. Io ti dico soltanto questo, che sì, la rassegna di adesso è il 2 in queste 16 sale, sì, e quindi sarà un giorno solo per tutte queste sale, quindi bisogna andare copiosi. Ah, proprio il, e il ci sarò anch'io presente il 2 al Greenwich. Benissimo. A che ora? Alle 20:30. 20:30. Costanza, t'abbraccio. Grazie. Ciao, a presto. Ciao. Costanza Quatriglio, regista del documentario Terra Matta. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Allora, visto che tra l'altro parlavamo con Costanza Quatriglio degli archivi dell'Istituto Luce, siamo in collegamento con Beppe Atena, Atene sulla... sull'accordo tra l'Istituto Luce Cinecittà e il coordinamento delle associazioni e circoli cinematografici italiani per la circuitazione sia di film che di documentari. Beppe, certo, ci sei? Eccoci qua. Allora, ci ritroviamo perché con te a inizio anno avevamo parlato della rassegna L'Italia che non si vede, giusto? Sì, certo. E allora, raccontaci un po' di questo, di questa novità, ennesima novità dell'Istituto Luce per distribuire il vasto materiale a disposizione. Beh, diciamo che si inizia un po' a intravedere la strategia che abbiamo cercato di portare avanti in questi mesi. Da una parte L'Italia che non si vede, come ricordavi tu, dall'altra l'accordo con l'ANEC del Lazio per far circolare i documentari, un ciclo di 6 documentari nelle sale della provincia di Roma, e l'altro giorno abbiamo firmato invece questo accordo con il cartello delle associazioni culturali. Di fatto si tratta di un tessuto straordinario di 1500 circoli tra una cosa e l'altra, che operano spesso in condizioni volontaristiche e a volte spesso anche professionalmente per la circuitazione di prodotto cinematografico e documentaristico. Abbiamo un accordo generale, gli forniremo tra un po' un catalogo organizzato anche per temi, sì, in maniera da spingerli, col consenso naturalmente dei loro gruppi dirigenti, a scegliere dei pacchetti di consumo e proporli poi ai loro spettatori, ai loro iscritti. Beppe, allora, intanto si tratta di 1500 circoli su tutto il territorio nazionale. Esatto. E poi volevo chiederti, la scelta dei titoli tra film e documentari, su che mole di lavori potete operare? Ma io penso che noi stiamo in questo momento scegliendo non tanto su base, e non solo su base qualitativa, ma in particolare privilegiando i film e documentari di cui abbiamo i diritti cinema, sì, i diritti theatrical. Diciamo che saremo intorno nella prima fase ai 200 titoli da proporre loro. Tieni conto che in questo periodo noi stiamo distribuendo, come forse hai visto, L'Ultimo Pastore, sì, sì, che sì, ormai è in programmazione a Milano da 2 settimane e va avanti tranquillo. Cioè, si inizia a dimostrare che che nella crisi delle sale possono trovare nel rapporto con la documentaristica anche degli spazi di rafforzamento, se non di sopravvivenza, insomma. Tra l'altro mi sembra che ci sia anche l'opzione della presenza in sala degli autori, con cui poi avere un incontro con gli spettatori e le spettatrici. Beppe, questa rete nazionale opererà come succede già per le rassegne che avete messo in piedi, a livello coordinato, oppure ognuno si muoverà come meglio crede? Ma ognuno si muoverà come meglio crede, e soprattutto ognuna di queste associazioni deve poi rispettare l'autonomia dei circoli. Sì, la verità è poi questa. Esperienze come quella del Lucca, di cui abbiamo parlato qualche mese fa, sono interessantissime, ma in qualche maniera poi si un po' collidono con l'autonomia dei singoli, dei circoli, e con i percorsi che ogni circolo fa. Noi tendiamo in questo momento, offrendo anche dei pacchetti, delle proposte tematiche, però tendiamo soprattutto a dirgli: decidete voi, questo certo. È quello a cui potete in questo momento accedere a prezzi molto bassi, e più accedete più i prezzi si abbassano, ovviamente, dando il massimo di autonomia e di aiuto a ognuno. Ecco, questo è il tentativo che stiamo facendo. Senti, finora che risultati ha prodotto questa collaborazione con i circoli cinematografici, parlando insomma delle rassegne che già sono partite? Le rassegne stanno camminando, non c'è nessun problema. Io ho però davanti agli occhi il fatto che un film come quello, appunto, che citavi tu poco fa, di Costanza Quattriglio, è ormai attorno ai 60-70 passaggi cinematografici. Sì. Un film come quello su Ingrao è ai 40, no? Cioè, voglio dire, inizia a prospettarsi un territorio che, se non è paragonabile allo sfruttamento cinematografico ufficiale, però spesso è superiore ai punti più bassi del mercato commerciale, insomma, ecco. Tempo trascorrendo, ti sembra che questi circoli stiano aumentando di importanza, dimensione e numero, oppure c'è un restringimento? Ma sai, è una cosa stranissima da questo punto di vista, nel senso che io, sinché sono stato in Sardegna sino al 78, ho lavorato per l'Umanitaria di Cagliari, che aderendo alla Federazione Italiana Circoli del Cinema aveva una serie di circoli. Quando sono partito pensando che sarebbe stata un'esperienza a chiudersi e che i circoli sarebbero morti nella apparente sovrabbondanza di audiovisivo disponibile. Sì. Il paradosso è esattamente il contrario, che poi alla fine ti rendi conto che crescono di numero e continuano a lavorare perché occupano una specificità di consumo che non è coperta da internet, dalla televisione e così via. È assolutamente, mentre le sale sono andati in crisi, i circoli hanno tenuto tranquillamente botta, ecco. Sì, anche perché c'è questo grande vantaggio di socialità, perché si può poi conversare al termine della proiezione con gli autori, ma anche con Tra se stessi. Io sono stato allievo di Filippo Maria De Santis, il quale sosteneva che il film è, come dire, eversivo in quanto in se stesso, perché solo il fatto di costringere lo spettatore a entrare in un linguaggio differente, a accettare dei moduli narrativi diversi da quelli banali nei quali quotidianamente vive, già solo questo basta a dargli una natura eversiva. E in più, che ogni spettatore costruisce di fatto il suo film attraverso il suo rapporto creativo col prodotto che vede. I circoli sono il riflesso di questa funzione, naturalmente. Beppe, in chiusura, su internet, per seguire la programmazione, anche le novità e poi come si sta svolgendo questa iniziativa, quali indirizzi ci puoi dare? Ma sicuramente l'indirizzo, parliamo adesso dei circoli del cinema o dell'Italia si racconta? Parliamo adesso dei circoli, visto che... I circoli, io penso che noi faremo una manifestazione, credo tra un 20-30 giorni, in cui nella sala del Ministero della Cultura presenteremo l'accordo, un po' di autori cinematografici commenteranno questa cosa qui e lanceremo lì la cosa. A quel punto sapremo anche, certo, come dire, a chi rivolgerci. Bene, allora un in bocca al lupo, a risentirci per le prossime novità. Grazie, un abbraccio, grazie. Beppe Attene dell'Istituto Luce Cinecittà sull'accordo con il coordinamento delle associazioni e i circoli cinematografici italiani. E con noi Simone Avincola, regista del documentario Stefano Rosso, l'ultimo romano, che sarà presentato questa sera al Nuovo Cinema Palazzo e domani invece al Cinema America Occupato, sempre qui a Roma. Simone, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao, grazie, benvenuto, e ti ringrazio per avermi ospitato. Allora, noi tra l'altro, raccontiamo pure l'antefatto, perché ci siamo conosciuti al bar San Callisto a Trastevere, che è uno dei bar storici, insomma, che mi ha anche cresciuto fin dagli anni Ottanta. E ieri al Cinema America Occupato c'era il documentario di Ivano De Matteo, sono stato a salutarlo, Barricata San Callisto. Parlando del bar San Callisto, va detto che uno dei due baristi è il fratello di Stefano Rosso. Esattamente. Sergio, come dico sempre, è lo storico barista dello storico bar di Trastevere del San Callisto. Sì. Tra l'altro, insomma, Ivano De Matteo, che tu dicevi, è uno dei personaggi che ho intervistato proprio nel film, perché anche lui ha conosciuto Stefano, insomma, quindi anche lui ha dato il suo contributo alla memoria di Stefano. Bene, allora Stefano Rosso, l'ultimo romano, raccontaci un po' questo progetto che hai poi sviluppato. Sì, è un esperimento, diciamo, perché diciamo che già molte persone mi dicono che piace, e sono molto, molto contento. Un esperimento perché poi io in realtà sono un cantautore, però il fatto, mi è sempre piaciuto Stefano Rosso, ma il fatto che secondo me sia stato ingiustamente dimenticato sia in vita che dopo la sua scomparsa, ecco, mi ha spinto, diciamo, in qualche modo a cercare di riportarlo un po' alla luce nel mio piccolo, e quindi ho realizzato questo film documentario insieme, anche devo dire, a Matteo Alparone, che è stata la parte tecnica essenziale, che si occupa del montaggio, e sono andato un po' telecamere spalle e microfono a intervistare tutti quelli che sono stati gli amici, i parenti e gli artisti che gli hanno voluto bene e che lo hanno conosciuto. Quindi sono riuscito a scoprire vari tipi di Stefano, ecco, diciamo, da quando ha cominciato a suonare nelle botteghe, al folk studio, fino all'ultimo periodo, insomma. È stato molto, molto bello, un lavoro lungo, perché è durato 2 anni, essendo autoprodotto, insomma, come immaginerai, sì, c'è avuto del tempo, però sono molto contento. Senti Simone, visto che già era una passione preesistente quella che riguardava Stefano Rosso da parte tua, e cosa ti piaceva particolarmente in lui? Guardi, in lui diciamo la cosa che mi ha colpito più di tutti, devo dire che è stata la coerenza, la coerenza anche artistica, ma anche proprio come lui ha gestito in parte la sua vita, quel poco di vita che poi sono riuscito a scoprire, e la coerenza artistica, nel senso che lui non si è mai venduto a nessuno, ha rifiutato anche molte proposte che a lui non piacevano, pur di continuare sulla sua via, sul suo modo di scrivere canzoni. Cioè, se tu vai a vedere per esempio la discografia di Stefano Rosso, è totalmente, e vai a vedere gli anni in cui sono usciti i dischi, e li compari con i dischi che andavano di moda, scoprirai che sono totalmente fuori moda. E quindi questo, diciamo, è la cosa che mi ha colpito di più e che mi piaceva molto, perché credo che oggi a livello artistico ci sia un po', diciamo, un po' di incoerenza, ecco. Quindi un personaggio come Stefano sicuramente oggi insegnerebbe tanto. Ecco, soprattutto per i più giovani che non lo conoscono, il suo pezzo più celebre è quello Una storia disonesta, sì, dove canta due amici, una chitarra e uno spinello. Sì. Senti Simone, e invece curiosando, in senso anche intervistando tutte le persone che gli sono state vicine e l'hanno conosciuto, quali sono state le sorprese? Ma sai, ci sono stati un sacco di aneddoti divertenti che mi hanno raccontato. Ti posso dire una che mi ha raccontato proprio Sergio, il fratello appunto di Stefano. Stefano andò a Sanremo a cantare una sua canzone molto bella, tra l'altro anche molto coraggiosa, perché si chiamava L'Italiano, e criticava molto, anche in modo ironico, come lui sapeva fare benissimo, l'italiano medio, diciamo. E lui andò lì, per paura di scordarsi il testo, lui si presentò con un giornale davanti agli occhi, e quindi lui cantò il pezzo con un giornale, e tutti pensarono che era magari, che ne so, una cosa coreografica, una scelta coreografica, eccetera. In realtà è perché c'era pure scordarsi il testo, e lui dentro il giornale ci aveva stampato, il testo della canzone, e se la dimenticò comunque. Quindi uscì un articolo con scritto Stefano Rosso. Diventò famosa quella edizione perché Stefano Rosso si dimenticò il testo, ecco. Questo per dire chi era Stefano, che tra l'altro nemmeno aspettò, sempre Sergio mi ha detto, nemmeno aspettò il risultato finale, corse subito a San Callisto, tornò a Roma, insomma, così, insomma, se ne fregò in qualche modo, era molto combattuto, ed era, come dire, quell'ambiente nemmeno gli piaceva più di tanto, perché era pure un po' fuori da, diciamo, dal suo modo di vedere le canzoni, no? Cioè, di vedere la musica, diceva, cioè, che lì era tutto in modo in fibrillazione, per quello che poi, come diceva lui in un'intervista, alla fine era semplicemente dovrebbe essere semplicemente comunicare e fare musica. Senti, a proposito di bar, il legame forte con Trastevere, Stefano Rosso, che traspare anche dal titolo che hai voluto dare a questo tuo lavoro, L'ultimo romano, che sembra un po' ricalcare il destino di un rione storico, insomma, che si è profondamente modificato negli anni. Esatto, hai detto proprio la cosa giusta, è perfetta, tant'è vero che L'ultimo romano, appunto, il titolo che dà questo documentario, è tratto da una canzone di Stefano, che nel film, diciamo, va a chiudere, ed è recitata da un suo amico, un poeta, che è Nicolino Pompa, che recita questa sua bellissima canzone, in cui narra proprio questa cosa, cioè questa persona che torna dopo tanti anni a Trastevere e vede che non è più la Trastevere di una volta, che si è trasformata in un parcheggio praticamente, no? E quindi attraversando il semaforo viene investita. E io l'ho voluta vedere così, secondo me lui, oltre al fatto proprio materiale, diciamo, di questa persona che viene investita, secondo me viene anche investita dalla modernità, da un certo tipo di modernità, che poi a conti fatti trasforma quei vicoli bellissimi che sono, per esempio, quelli appunto di Trastevere, Santa Maria in Trastevere, Piazza di Gusto, eccetera, in parcheggi, in un ambiente comunque freddo, totalmente privo di tutti quei colori e quel calore che c'aveva la Trastevere di una volta, diciamo. Oh, in tutto questo non è un caso che tu presenti il tuo lavoro in due luoghi, che sono due cinema chiusi e poi riaperti, rimessi a disposizione della cittadinanza da giovani. Per esempio, il Cinema America è occupato da giovanissimi, per lo più liceali, ed è molto vissuto anche dal quartiere. Sì, è vero, infatti ho scelto due luoghi di questo tipo, stasera al Nuovo Cinema Palazzo, anche quello occupato, e poi domani al Cinema America occupato, e questo cinema, sì, tra l'altro a due passi dal Bar San Callisto, quindi c'è lì vicino, e loro sono stati molto, tutti e due, insomma, sia Cinema Palazzo e Cinema America, sono stati molto, molto attenti a questo progetto e mi hanno dato veramente una grossa mano, infatti li ringrazio tantissimo. Senti, visto che sei anche cantautore, immagino che oltre ai testi, anche dal punto di vista strettamente musicale, Stefano Rosso per te è stato un po' un esempio. Sì, assolutamente. Infatti questa è una cosa che lui ci teneva molto a far circolare, questa cosa, cioè il fatto che lui poi era un chitarrista, ma un chitarrista veramente, veramente bravo. Fu il primo a portare il finger picking, la tecnica chitarristica finger picking, nella canzone d'autore. Questi pochi se lo ricordano, però è così. Addirittura ha fatto anche un manuale, poi insomma l'ho raccontato anche nel film, ha fatto un manuale della chitarra finger picking, si esibiva spesso facendo anche concerti solo musicali, ha fatto vari dischi purtroppo praticamente introvabili. Infatti, ecco, il mio auspicio è che poi questo film possa essere, diciamo, il primo passo per una riscoperta di Stefano Rosso, e magari che succeda un po' quello che è successo con Rino Gaetano, no? Sì. Che poi comunque era comunque più conosciuto, ma fino a 10-15 anni fa non aveva sicuramente la notorietà che c'ha adesso. Quindi spero che attraverso questa, diciamo, che questo possa essere il primo passo per far sì che magari, che ne so, magari qualche discografico, invece che fa uscire solo le compilation, magari fa uscire pure qualcosa, qualche disco, perché sennò si trovano soltanto i vinili di Stefano. Sì. Senti Simone, per quanto riguarda invece la ricerca di immagini d'archivio, hai trovato anche chicche interessanti riguardanti proprio lui? sì, c'è stato un po' di materiale d'archivio, c'è lui la prima apparizione televisiva da Renzo Arbore, completamente antitelevisivo, vestito da Beatles, che va lì, la prima cosa che fa quando Renzo Arbore gli fa una domanda, gli mette il microfono in faccia e gli fa: oh, ma che mi puoi menare? Quindi il riassunto di Stefano Rosso. Bene. Senti Simone, tu oggi al Nuovo Cinema Palazzo sarai anche in veste di cantautore. Sì, stasera lì, diciamo, spesso fanno anche concerti, quindi abbiamo approfittato e ci sarà la proiezione verso le 21 e poi a seguire facciamo un concerto noi, oltre ai pezzi miei facciamo anche qualche omaggio a Stefano, insomma. E invece domani il Cinema America occupato alle 21:30, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere intorno a quell'ora, sì. Bene, nel salutarci Simone, ci dai anche qualche indicazione internet relativa al tuo lavoro, al tuo documentario? Sì, allora, sono due gli indirizzi, c'è la pagina Facebook, che è facebook.com/StefanoUltimoRomano, e da lì si trovano molte curiosità, perché articoli, insomma, gli articoli che sono usciti, le interviste, eccetera, e poi c'è il mio sito, che è simonevincola.it, dove praticamente da metà aprile, credo, io metterò il film online, gratuito per tutti. Quindi, bene, mi sa questo. Tanto che ci vedremo domani al Cinema America. Un abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio a te, veramente grazie di cuore. Ciao Simone. Ciao. Simone Avincola, regista del documentario Stefano Rosso, L'ultimo romano. Jacopo Chessa, regista del documentario L'accordo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Allora, l'accordo, di cosa stiamo parlando? Qual è questo accordo? L'accordo di Mirafiori del 2011, cioè l'accordo sindacale separato che è seguito a quello di Pomigliano, che era del giugno del 2010, e che è stato sottoposto, in realtà l'accordo è della fine del 2010, ma è stato sottoposto a un referendum nel gennaio 2011, e il film è la storia di questo accordo. Come hai voluto raccontare questa storia? Da dove è partita e come è partita questa idea? È partita con l'avventura di Prime Bande, che è la casa di produzione, che è un'associazione che ho fondato con Andrea Spinelli, e partita proprio davanti ai cancelli di Mirafiori, perché abbiamo iniziato a documentare quello che stava succedendo e a raccogliere le voci. Poi abbiamo iniziato a fare delle interviste, essenzialmente un documentario di interviste, perché io avevo montato, insomma, nella prima versione c'era, come dire, un grosso blocco dedicato a quello che succedeva davanti ai cancelli, che ho asciugato via via e ho lasciato per lo più le voci dei lavoratori e dei sindacalisti, ma non solo, anche vari analisti, insomma, come per esempio Gustavo Zagrebelsky, per dirne uno, o politici. Diciamo che sia, appunto, un film di interviste, e forse la caratteristica peculiare è che parlano tutti. Ed è una cosa, secondo me, col passare del tempo è la cosa che lo rende più forte, perché sentire a 2 anni di distanza i sindacalisti della UIL o della CISL che difendevano a spada tratta d'accordo, devo dire che fa una certa impressione, sembra passato un secolo. Ecco. Sì. Senti Jacopo, a proposito degli operai, dicevi delle voci degli operai, ecco, cosa dicono questi operai? Quali sono le loro voci? Cosa esprimono? Ma guarda, gli operai intervistati, appunto, appartenenti a tutte le sigle sindacali, ma esprimono scoramento essenzialmente, perché sai, in questo accordo arriva in una situazione che è di una fabbrica quasi chiusa, perché Mirafiori è in cassa integrazione, è per lo più in cassa integrazione da ormai, non so, 2 anni, 3 anni, e quindi logicamente molti hanno detto sì all'accordo per disperazione, quindi in realtà il risultato, il 46% per il no, fu un risultato abbastanza straordinario, perché comunque era un rischio. Poi in realtà, come dire, quello che è successo dopo è la conferma che era una strategia aziendale, però insomma, questa è la prima impressione che abbiamo avuto. Poi di abbandono, perché sai, se Torino è vero che storicamente è stata una piazza importantissima per delle lotte operaie, forse la città più importante in Italia per questo, è una città laboratorio, adesso non c'è più questo sentire così forte, questo logicamente i lavoratori lo sentono. Ma anche molta, ovviamente, voglia di riscatto e dignità, quello, cioè, in voce di molti, questo è sicuro. Sì, sì. Senti Jacopo, a tuo modo di vedere, quali sono i punti più critici di questo accordo e quali invece quelli che potrebbero alimentare mobilitazioni o comunque nuove prospettive o nuove modalità di rapporto tra sindacato, cioè tra lavoro e fabbrica e padrone? Ma guarda, il problema di questo accordo è che è un accordo pensato per un'enorme produzione, cioè questo accordo si applica, la gran parte delle norme di questo accordo si applicano se la Fiat facesse 6 milioni di macchine, in buona sostanza, sì. Ok? Questa cosa non accade, cioè l'hanno anche esteso agli altri comparti del gruppo Fiat, ma questa cosa accade in pochissime delle realtà Fiat, ne cito una, Ferrari. Quindi in realtà la questione dei turni dei 10 ore non si affronterà nemmeno, perché il problema è andare a lavorare alla Fiat. Sì. La cosa secondo me proprio più critica di questo accordo è che così come nell'80, in maniera completamente diversa, è un paragone difficile da fare, però così come nell'80 qui l'azienda ha voluto come dire, far capire in modo anche molto, molto duro, molto, molto forte sull'immaginario chi comandava. Mm-hmm. Questa è stata una cosa che sicuramente, questa è una cosa che resta. Ecco, proprio a questo proposito, Jacopo, ha fatto scuola? Che cosa, scusami? Questo approccio, questa... sicuramente sì, sicuramente, poi sai, ha fatto scuola perché chiaramente Marchionne, per quanto impopolare sia, è vero che questa cosa è riuscita a estenderla a tutti gli altri stabilimenti e l'idea anche di fare degli accordi separati è sempre più accettata, ecco, scandalizza di meno, ecco. Ecco, dicevi a due anni di distanza, oltre allo spirito degli operai e alle parole che tu hai filmato 2 anni or sono, qual è la situazione? La situazione è peggiorata perché io sono in contatto con dei lavoratori che sono nel film, in particolare Pasquale Lo Iacono, che viene sempre a presentarlo, ogni volta è venuto anche a Bologna. E la situazione è sempre quella di una cassa integrazione senza grandi prospettive, perché sai, su Mirafiori sì, ogni 2-3 mesi viene fuori un'ipotesi nuova. All'epoca, mi ricordo, all'epoca dell'accordo, era il SUV. Fare il SUV con del modello Jeep con brand Alfa Romeo, era questa la frase che si usava, cosa che poi non è stata fatta e quindi insomma le prospettive non sono positive, ecco. Che tipo di circuitazione ha avuto il tuo documentario? Allora, è andato a 2 festival, è andato al Festival del Cinema Europeo di Lecce e al Milano Film Festival. In ambedue i casi è stato presentato con degli esponenti sindacali della FIOM, con grandi incontri, dibattiti dopo il film e poi circuitazione indipendente, il Kinodromo a Bologna per esempio, e a Pisa al Teatro Rossi, anzi lancio un appello per Roma, perché io aspetto Roma, non mi chiamano da Roma, io insomma. Senti, ecco, a questo proposito c'è anche un sito internet relativo al tuo documentario? Allora, ci sono 2 siti, c'è il sito dell'associazione che è www.primebande.com, che su cui ci sono tutte le informazioni su dove viene proiettato, schede tecniche, trailer, eccetera, e poi si può vedere il film sul sito On The Docs. .com, direi, sì. On The Docs, che è un sito di streaming e a pagamento, costa 2,99 euro, e niente, questa è la distribuzione che conosce per il momento. Un'ultima cosa, gli operai hanno avuto modo di vederlo, si sono riconosciuti, che impressioni ne hanno ricavato, che cosa ti hanno detto? Ma guarda, allora intanto gli operai che l'hanno visto sono per lo più operai non torinesi, cioè non del gruppo Fiat, o comunque sia non del gruppo Fiat a Torino, perché a Torino per quanto sia stato proiettato 4 volte è venuta pochissima gente, quando si parla di Fiat è davvero difficile riuscire a riempire la sala a Torino. E beh, sono, devo dire, voci sempre molto forti, perché effettivamente, come dire, ci sono le dichiarazioni, non so, per esempio di Chiamparino, dei politici, di certi sindacalisti, sentite da chi è parte in causa, suscitano, cioè, ogni volta c'è una litigata, ogni volta, o comunque si interventi accesissimi ogni volta che viene proiettato il film dopo. Poi è un film che secondo me, per come l'ho concepito io, è un film molto freddo, molto analitico sulla cosa, cioè spiegare che cos'è un accordo sindacale a chi non ne sa niente e che cos'è quell'accordo lì. Però appunto invece poi suscita queste reazioni. Bene Jacopo, allora io spero di risentirti presto, magari per prossime novità o anche sviluppi relativi al tuo documentario. Un abbraccio e a presto. Ma grazie tante, ciao, ciao Jacopo. Ciao. Jacopo Chessa, regista del documentario L'Accordo. In collegamento con Emilio Casalini, regista del documentario Spazzatour. Pronto, buongiorno. Ci sei? Eccoci. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, del tuo documentario avevo saputo seguendo un po' i festival in giro per l'Italia, mi è piaciuto subito a partire dal titolo. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Si tratta di un viaggio che nasce da un dubbio che è venuto a molti giornalisti quando si vedevano questi sequestri di materiali di rifiuti nei porti, questi container pieni di rifiuti che partivano per non si sa dove. E quindi l'idea è nata proprio da lì, cercando di seguire le tracce di questi rifiuti che clamorosamente per noi sembrano appunto spazzatura, addirittura rappresentano un costo per lo smaltimento, versamenti nelle discariche di cui siamo mai anche qui a Roma sommersi, e invece questi addirittura li spedivano in Cina. Quindi intanto la sorpresa è dire: ma che ci fanno con questa spazzatura? L'idea è stata proprio di seguirla dall'altra parte del pianeta, trovando che i teli, per esempio, usati dell'agricoltura, impregnati di pesticidi, invece che essere trattati nelle industrie specializzate per le quali oltretutto noi paghiamo tutti quanti un contributo ambientale, venivano vendute, portate dall'altra parte del mondo, lì trattate, lavorate senza nessuna forma di controllo e di garanzia, ritrasformate in materia vergine, che sono semplicemente delle palline di plastica che possono essere utilizzate per rifare altri prodotti, quindi dopo diventavano questi rifiuti, diventavano materia prima per fare qualsiasi cosa, per cui anche giocattoli, tutte cose che rientrano nella nostra vita quotidiana nel mercato. Il problema è che quel materiale non è controllato e molto spesso può risultare tossico. Quindi questo è il viaggio di Spazzatour, è un viaggio seguendo i nostri rifiuti che diventano ricchezza importante per gente, imprenditori disonesti dall'altra parte del mondo, in questo caso sono cinesi, ma è un flusso di malavita nostrana e internazionale, però può riportarceli nelle nostre case, nei nostri negozi. Senti, sono dinamiche che già conoscevate e sulle quali avevate deciso di intraprendere questo lavoro, o ci sono state anche scoperte strada facendo? Beh, alcune informazioni c'erano, però insomma anche, diciamo, per le difficoltà anche della polizia italiana, della Guardia di Finanza, di poter lavorare sul territorio cinese, dove ci sono poche risposte, poche anche collaborazioni, non c'erano queste grandissime, si ipotizzava, c'era un'ipotesi. C'è stato fatto un grosso lavoro, avevo almeno due identità finché ero lì, avevo tra cui una come impresario del riciclo dei rifiuti un po' criminale, e quindi sono entrato in contatto con i trafficanti a cui ho offerto i miei prodotti, ho richiesto i loro servizi, c'è una serie di coperture, di finte identità per riuscire a entrare in contatto proprio in profondità con questo mondo e sentire dalla loro viva voce quanto valevano i miei rifiuti ospedalieri, per esempio, o tossici o qualsiasi altra cosa. Quindi è stato un lavoro anche di intelligence per certi aspetti, per riuscire a entrare dentro le cose. E il risultato è stato che dopo questo anche varie indagini hanno avuto un po' uno sbocco forte, e anche c'è stata una liberalizzazione dei flussi di informazione tra le polizie dei due paesi. Questo sì, c'è stata più attenzione, ecco. Anche perché poi c'è un problema di sicurezza molto forte, molto importante per i prodotti che entrano, ripeto, moltissimi sono giocattoli, certo. E non puoi sapere esattamente se sono tossici scusate o no, perché quando viene trasformato il prodotto, la materia prima tossica è mescolata insieme ad altri miliardi di chili di altri materiali, per cui tu puoi avere nello stesso scatola di giocattoli che mettono in bocca i bambini, uno estremamente tossico e gli altri 100 no, quindi certo, anche i controlli sono praticamente impossibili. Certo. Senti, a questo proposito, Emilio, visto che la spazzatura è diventata uno dei principali fonti di guadagno per la criminalità organizzata, quali sarebbero i metodi per sconfiggere questa dinamica? Come al solito il controllo, che però significa anche leggi molto specifiche. Noi abbiamo un problema gigantesco perché sulla parte, diciamo, il codice ambientale praticamente non esiste, è un po' raffazzonato su con delle leggi, con delle regolamentazioni, ma non c'è un ordinamento specifico della nostra sistema giudiziario che affronti in maniera organica questa serie di problematiche, per cui anche le varie procure, i vari poliziotti che possono essere guardie finanze, guardie dogana, carabinieri, forestale, tantissimo si sta impegnando la forestale su questo fronte, non hanno competenze specifiche, quindi è sempre difficile affrontare questi mercati dove i trafficanti invece scivolano molto facilmente tra le pieghe della documentazione e delle scappatoie, diciamo, pseudolegali. Il problema sono veramente abbiamo un grandissimo buco giudiziario su questo e anche di competenze, perché le procure che si occupano di questo non ci sono procuratori esperti in materia, sono pochi, sono pochissimi quelli veramente esperti, quelli che se ne occupano non sanno, quindi è una lotta quasi impari. Il controllo sul territorio, conoscendo questi meccanismi, in realtà ormai si conoscono, ma non ci sono gli strumenti per combattere, gli strumenti specifici, quindi il controllo qui da noi diventa la nostra salvezza per impedire che ci ritornino le cose, perché se non escono quei rifiuti, poi c'è un paradosso, è una delle cose più sconvolgenti, quei rifiuti che sono per loro materia prima, al punto che la prendono, la comprano, la fanno arrivare dall'altra parte del pianeta, non è un costo banale come in termini anche proprio di trasporto, da noi è ancora considerata un rifiuto, cioè una cosa inconcepibile, per cui noi abbiamo una scarsa struttura di controllo sui flussi di rifiuti qua italiani e quindi la consideriamo la spazzatura che buttiamo fuori casa e basta, che si arrangino, non dimenticando che è una ricchezza incredibile, perché viene appunto, se addirittura se la portano dall'altra parte del pianeta ci avrà un motivo. Certo. E che quando esce fuori dal nostro controllo non sappiamo più cosa farne, mentre ci sono delle società, delle ditte estremamente specializzate qui in Italia che fanno esattamente quello. Per fare un esempio pratico, un telo d'agricoltura non deve essere buttato, ma viene riciclato, pulito, fatto 7 lavaggi, delle centrifughe particolari, quando viene trasformato di nuovo in grano, in graniglia di materia prima, può essere utilizzato per fare altri sacchetti, ma attenzione, quei sacchetti che escono da quella fabbrica sono sacchetti per esempio per la spazzatura, quei sacchetti neri, non possono diventare sacchetti per, non so, contatto alimentare. Ecco dove arriva se c'è la filiera sotto controllo, trasformiamo un problema, diciamo un costo, in una ricchezza e diventa una filiera controllata. Altrimenti cosa succede oggi? Quelle stesse società chiudono, sono in fallimento, a rischio di fallimento, perché non c'è più materia prima, perché se la comprano gli altri. Quindi abbiamo società che non lavorano perché non ci sono rifiuti, discariche piene perché tutto viene messo, diciamo, buttato dentro alla rifusa, si chiama, sì, tal quale, cioè prendiamo il sacchetto e lo buttiamo dentro, viva il parroco, e le società che lavorano, ma questo vale anche, faccio una piccola digressione, sui frutti elettronici. Tutte le schede madri sono piene di metalli preziosissimi che non vengono recuperati, certo, ed è una follia anche, certo, quella. Certo. Quindi, e ci sono società anche lì che lavorano su quel recupero di questi materiali che non riescono a lavorare perché non li obblighiamo, i produttori, la filiera e il riciclo, a essere completo. Se ci fossero normative stringenti su questi argomenti, noi avremmo materiali che rimangono qua, che non vanno a inquinare le nostre falde attraverso le discariche, e produzione di ricchezza, perché quei materiali altrimenti li dobbiamo comprare di nuovo dall'estero. Certo. Emilio, in chiusura, dei riferimenti internet per il tuo documentario Spazzatur? Mi hai preso la sprovvista. sul sito di report.rai.it o su YouTube. Benissimo. Io spero di risentirti presto, è stato un piacere, anche molto illuminante, e quindi ti abbraccio. Grazie mille, arrivederci a tutti. Ciao Emilio. Ciao. E siamo in chiusura, questa era Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15, riferimenti per inviarci posta elettronica a visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta 342-357-4357, siamo sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e poi sulla pagina Facebook Visionari.